Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Ναι, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Ναι, Β' Αθηνών, Βαρουφάκης Ιωάννης. Όχι. Βαρουφάκης Ιωάννης ha votato Όξι. No, in Parlamento. Βαρουφάκης Ιωάννης, Όξι. No, ma il Parlamento greco nella notte ha approvato il piano di sacrifici. Atene, ieri. '50 anarchici arrestati, bombe Molotov e scontro in piazza. Non ne usciamo più, la Grecia è un cantiere attaccato ai baroni. Vabbè, questo era il nostro Alberto Forchielli, lo sapete. In realtà la situazione è abbastanza seria. Allora, nella notte il Parlamento greco ha approvato il voto con il voto di 229 sì, una sessantina di no, 6 astenuti, tra i no c'è Varoufakis, il piano per ottenere 82 miliardi di prestiti. Oh, tra l'altro, se avete 4 milioni e mezzo, così sull'unghia, potete comprarvi l'isola di Stroghilo. Se avete invece 5 milioni, potrete comprarvi l'isola di Chitos. Non chiedetemi che razza di isole siano, andate a studiarvele. Stroghilo o Chitos. 5 milioni... e 4 milioni e mezzo. Se ne avete 9 milioni, secondo me ve le portate via tutte e due con un piccolo sconto. E l'Europa invece che fa? Beh, l'Europa intanto vieta le vongole italiane. Non c'entra niente. No, ma guardate che non è uno scherzo. Su Repubblica oggi si racconta che le vongole italiane sono fuori legge, arrestate tutte, perché l'Europa ha stabilito che la vongola, per essere raccolta, deve avere un diametro non inferiore a 25 mm. È un dramma vero per il settore, in realtà, perché in Italia, soprattutto nell'Adriatico, a 22, più di 22, di 22 mm le vongole italiane non crescono. E l'Europa dunque ha sancito che non vanno più raccolte. Settore in crisi, via. L'Europa ha deciso. E in Germania invece che dicono? In Germania hanno condannato il contabile di Auschwitz. No, non c'entra niente neanche questo. Però l'ho letta sui giornali proprio ieri. Ma tu vedi le coincidenze. Il contabile di Auschwitz, colui che doveva contare i morti, Oskar Gröning. 300.000 morti ad Auschwitz, 4 anni di carcere. Beh, poi l'hanno beccato subito, a 94 anni ormai. Questo è 24 mattino, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro Carmelo Lauricella in regia, ci siete anche voi immagino, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, se volete darci qualche considerazione sulle vongole, se avete soldi per Strogilo e Kitos, le due isole che vengono via 4 milioni e mezzo l'una e 5 milioni l'altra. Ditemelo, insomma. E scrivetecelo. Ringrazio Eleni che mi dice che si pronuncia Piazza Sindagma. Adesso qua devo studiare anche il greco. Guardi Eleni, le presento subito uno che il greco lo conosce benissimo. È Paolo Del Debbio che è qui con noi. Paolo Maledetto. Te ricordi Paolo Maledetto? Grandissima. Paolo Del Debbio, come stai? Tra l'altro, grande scoop di 24 Mattino. Noi sono notizie da Pulitzer. Abbiamo qui con noi il prossimo sindaco di Milano, Paolo Del Debbio. Ma va, no, invece, perché non ci va a raccogliere le vombe? Si chiamano arcelle, no? Ah, le vombe. E poi dopo si comprano le isole con i ricavati. Si potrebbe fare. E poi coi soldi facciamo una prigione per il contabile di Auschwitz e ce lo teniamo lì. Si fa una sintesi delle tre notizie. Esatto, facciamo una sintesi e mettiamo tutto. Va bene. Oppure prendiamo le vongole e andiamo a portarle a Bruxelles in una protesta che neanche Salvini farebbe. Ce la siamo inventati noi qui a 24 Mattino. Esatto. Prima che ce la rubi Salvini, perché Salvini lo fa sicuro, andrà a raccogliere adesso. No, ci va Bonanno di sicuro. Bonanno, è vero, Bonanno porterà andò già col pesce in Parlamento italiano. È vero, la spigola di Bonanno. Adesso andrebbe chiamato in diretta. Adesso dopo magari lo chiamiamo alle 6:45, segnatevi buon anno. Che pensa al primo Twitter? Sì, anzi, secondo me sta già chiamando lui noi. L'ha già fatto. È lui che sta chiamando noi. Lorenzo, recupera il cellulare di buon anno, che poi lo chiamiamo e gli diciamo di portare un sacchetto di vongole all'Europarlamento per fare un po' di show. Allora, c'è chi mi dice comprati l'isola con 4 milioni e mezzo, magari è un'isola anche abbastanza deserta, e portati con te la nostra Veronica. Potrebbe essere una soluzione, poi ci devo venire io. Già, appunto, abbiamo già il 50% delle adesioni, manca la seconda, come dire. Bisogna un attimo valutarla la cosa, che poi è un problema. Tu intanto comprala, poi dopo vediamo. Mamma mia, ecco. Subito quegli investimenti a perdere, Paolo Del Debbio. Ti presento Veronica Gentili, scrive sul Fatto Quotidiano, fa l'attrice, fa molto piacere. Fa un po' di TV. È bravissima, è un po' bruttina, però è brava. Sì, c'ha questo difettuccio un po' bruttarella, vabbè, insomma. Però è brava, dai. Però è brava, meno male. Cerco di compensare come posso. Sì, coraggio. Con fatica. Dicevo, ma invece di portare le vongole, no? Potrebbero andare a caccia di cozze Salvini e Buonanno, che è quello che Ecco, lì c'era una polemica in questo, le cozze. No. Visto che hanno così questa scelta. Questo appeal, no? Dirompente. Sì. Beh, ma Salvini fa una strage, voglio dire. Salvini guarda una negli occhi. Guarda una negli occhi e si innamora, non so. A te ha fatto questo effetto? No, io non sono una donna. Ogni tanto c'ho dei momenti. Ecco, vabbè. Però Del Debbio può confermare che Salvini, quando viene in studio, no? Tutto è proprio vero? Ah sì, è un matatore, piace praticamente. Secondo me sì. O no, Paolo? Sì, allora io non seguo, diciamo, tutte le vicende degli ospiti, però insomma dicono di sì, ecco. Il maschio padano, come direbbe Aurora Lussana. È un bel manzo padano. No, vabbè, dai. È una categoria ossimorica. Esatto, vabbè, che devi fare? Allora, Varoufakis ha votato no. Apriamo il Parlamento, perché il Parlamento italiano, non greco, perché no, però adesso parlando seriamente, qui la questione, insomma, a me è un po' inquieta, Paolo Del Debbio, vedere che ci sono già gli scontri. Per carità, saranno dei fanatici, alcuni che non aspettavano altro, hanno fatto subito l'assalto alla banca centrale, figurarsi, subito l'assalto alla banca centrale. No, vabbè, quella roba lì è una roba abbastanza marginale, voglio dire, non è rappresentativa di un'opposizione greca, perché sì, poi alla fine gli altri hanno sfilato, gli operai eccetera, no? Tutti gli altri rappresentanti, ma hanno sfilato non in quel modo lì. No, certo, non senza violenza. Comunque comunque ricordo che quando c'è un Parlamento che vota dei sacrifici, che vota delle cose del genere, succedono sempre, è ovvio che succeda così, però questo, fin qui siamo delle cose normali. Sì. Ora speriamo che rimanga normale, nel senso che... Ecco, il problema è da ora in poi, nel senso che quei sacrifici lì, pur essendo alcuni di essi limitati, perché non sono cose pazzesche, ovviamente risultano lì pazzesche, ma alcune sono limitate, se pensiamo a quel che è successo in Italia negli ultimi 7-8 anni, insomma, che voi avete raccontato mattina per mattina, cioè Sottomonti che doveva venire in Italia, ha detto che ha salvato l'Italia. Veronica, l'hai sentito anche tu da Paragoni? Monti ha detto ha salvato l'Italia. Sì, va bene, l'ha già messo in croce abbastanza quello... Paragone, senza che... Ma no, ma è come quello che diceva l'operazione dell'uscita, il malato è morto, capito? Sostanzialmente è quello che avrebbe voluto fare di nuovo l'Europa, perché se fosse stato possibile attivare un governo tecnico immediatamente, prendersi per e buttarlo dalla finestra e rimettere su quelli che c'erano con un governo di coesione nazionale. Tu vedi questi complottoni, magari, deciso magari al Bilderberg. Subito il complottone. Complottone è diventato l'altra faccia di buonista, dove non sappiamo che buttare, o populista pure buttato lì così. Ma dico, visto che ti fanno arrabbiare le cozze, no? Sì. Le vongole. Dico, questa Europa ti innervosisce in questi casi, però poi quando ci sono le situazioni stile Tsipras, no, che dice metto in discussione quello che accade, poi lascia stare. Vabbè, ma non è che l'Europa fa sempre tutto di bello, tutto di brutto. L'Europa andava bene sui sacrifici che ha imposto alla Grecia e su tutto quello, cioè, non è che ce l'ho con la Grecia, voglio dire, è una questione di non so come dire, un qualcosa che in Italia un pochino sfugge, capisco la parola, di regole. Ecco, nel senso di regole, che capisco che è un concetto però un po'... esiste anche il buon senso che fa sì che se tu continui su un debito che non hai nessuna intenzione di tagliare o ristrutturare, cioè è un paradosso proprio ma a monte, infatti e questo... continui a dare dei soldi affinché venga rifinanziato un debito che resterà lì su e andrà questo, peggiorando, su questo sono d'accordo con te, il deodorante sopra il sudore, no, per coprire la puzza invece immagine di lavarsi le ascelle, che belle immagine, che belle immagine. Non c'era effettivamente immagine più efficace a quest'ora della mattina, però rende bene l'idea, rende capito? Benissimo, ma me infatti l'ha detto persino la Lagarde, sono... persino il Fondo Monetario, ma infatti detto, io sono d'accordo, il Fondo Monetario infatti dice basta, rivediamo questo debito, sennò la Grecia viene strozzata, e sono d'accordissimo, cioè non è che si può strozzare la Grecia, non so, neanche del debito, neanche che notoriamente uno un po' duro strozzerebbe la Grecia, o no Paolo? No, ma lì prima di tutto non era l'Europa ma era la Germania che voleva una cosa del genere, che è una cosa un po' diversa. Ma il problema è che conta che... solo la Germania. A meno che appunto non si identificano le due cose. E poi la questione è questa qua. Questa situazione, ricordiamolo bene, era risolvibile nel 2011 ed agendo 8 miliardi. Quindi diciamo c'è una... un'origine dell'errore, non è che non c'è, no? Te lo ricordi anche te, ricordiamo tutti, erano 8 miliardi. Se la Germania quella volta là, nel 2011, non avesse detto no, non avesse detto oxi da Germania, a questo punto non avremmo avuto il problema. Dopodiché, quello che dice la Veronica è giusto, perché praticamente... è giusto dal punto di vista quale? Dal punto di vista che è chiaro che questi due sono due che hanno fatto del casino. È chiaro che la Grecia ha fatto molto casino sul debito, no? È chiaro che i debiti si ripagano, perché se non si va su queste regole finisce tutto in questo mondo qua. Però è anche vero che ci vuole un grano sale, va fatto con un grano salis. Tanto è vero che quello che ha più grano salis di tutti, che è un italiano, si chiama Mario Draghi, ha detto fate delle cose con gradualità, ecco, ho usato questa parola. Gradualità. E che vuol dire gradualità? Vuol dire appunto e imporre un rigore senza strozzare l'economia. Infatti. Oh, intanto mi arriva un messaggio, scusate, mi arriva un messaggio, Giorgio da Como, io non so se sia vero, ve lo giro come mi arriva. Stanotte a Roma hanno imbrattato tutti i bancomat della Deutsche Bank e noi della vigilanza chiamati a correre. Ora, perché Giorgio da Como, come fa a sapere da Como che, non so, sarà collega di quelli della vigilanza? Voglio pensare che sia vero quello che ci dice Giorgio da Como, perché i nostri ascoltatori ci dicono sempre cose vere e non scrivono le minchiate così che li passano per la testa. Se è vero, per esempio, ma dai, ma c'è, ma i bancomat della Deutsche Bank sono una massa di stronzi, perché non c'entra nulla la Deutsche Bank. L'editoriale di Paolo Del Debbio, ma secondo me, ma perché non c'entra niente, scusa. Tu Veronica che sei di Roma, fai la cronista. Sono insignificanti. No, ma su Roma sono già, c'ho tutte le polemiche pronte su Marino, che ti farò anche felice sulla rapina alla gioielleria in Prati, le colpe di Marino, qui c'è. Adesso la colpa di Marino per No, il paradosso, ormai siamo arrivati, perché poi se bisogna dire che c'è il problema sicurezza, che così, intanto da metterlo ovunque, iniziamo a sentire Prati non è un quartiere sicuro. Sì, però, però ieri ho incontrato una persona che mi ha detto non posso dire chi è, forse tu Veronica lo sai, non dirlo. Che mi ha detto smettila di parlare bene di Marino, perché guarda che tu non puoi capire veramente. E io allora da quel momento mi fermo. Non è Varoufakis. C'è Varoufakis sotto la maschera di Marino. A un certo punto la toglierà tutto sarà chiaro. Però per me c'è Donna, tutto insieme Marino. Comunque voglio far sentire, attenzione a Paolo Del Debbio, una frase del Presidente del Consiglio, perché questa frase è di Matteo Renzi, che ha scovato il nemico numero uno: la disoccupazione, l'economia che non cresce, l'ISIS. Eccolo qui il nemico numero uno. Veramente sono i vostri nemici nei talk show? Nella comunicazione sì. Nella comunicazione il modello del talk show dove si urla, vince chi urla più forte, è esattamente l'opposto al racconto in positivo che noi vogliamo proporre dell'Italia. Nemico! Nemico! Ma è venuto due volte, anche adesso fai così, sei tutto contento quando arriva. Ma dicono tutti, molti dicono così, no? Dicono che è una trasmissione populista, eccetera. Chi urla, se urlano i politici fra di loro, e non sono fatti miei, sono fatti dei politici, ma urlano da una parte e dall'altra. È normale che non ti... Non ti senti un po' un nemico pubblico? No, io mi sento un nemico di nessuno, io continuo a fare il mio mestiere, non me ne frega niente. Questa affermazione in bocca a Renzi fa veramente ridere, visto che nel frattempo sta facendo il vademecum per andare in televisione. È vero, ha fatto il vademecum. Come diventare sempre più replicanti per i piddini. Ripeti con me, cosa devi dire sulla buona scuola? È vero, quindi... ha passato queste 12 domande e risposte sulla buona scuola. Se ti chiedono, caro parlamentare, il preside diventa il capo, rispondi assolutamente no. Ma fa anche bene, perché poi a volte non capiscono bene quello che devono dire. Quindi, per esempio, sulla Grecia hanno twittato tutti: la svolta epocale, la Grecia è stata salvata e la politica riprende il primato. Tutti twittato in serie, capito? Mannaggia, da migliore e così ma via. Ma ce l'hai su con la Grecia? Ma vuoi veramente che la compro l'isola? Ma ci andiamo? Ma dai, prendi quest'isola, dai. Su. Ma tu preferiresti Stroghilo o Chitos? Da come tu la pronunci? Non ci Stroghilo, perché sento che proprio ti piace dirlo, quindi soltanto per fare il viaggio con te, che dici sempre andiamo a Stroghilo. Però io continuo ad aprire qua i giornali, a sfogliare i giornali, non so, pagina 2 di Milano Cronaca, vedo la foto di un noto conduttore televisivo, il filosofo liberale che può sedurre Milano, qua diventa sindaco, candidato, tentazione Del Debbio, vabbè. Lui tace. E lui tace. E chi tace, chi tace consente. Chi tace consente. Direbbe Monti, non è nella mia agenda. No, non ho capito. Che hai detto? Direbbe Monti, non è nella mia agenda. Capito, ma è nell'agenda degli altri, però. Lo vedi, però è molto chic, uno diventa sindaco. Ma adesso... C'è la libertà di decidere, no? Ma no, certo, però siamo a giovedì 16 luglio, dacci una percentuale ufficiale che noi terremo delle zero. Possibilità che tu hai di fare zero. Il sindaco. Zero. Perché zero? Sì. Perché non lo voglio fare, perché non è il mio compito, perché non mi piace, perché vi faccio un altro mestiere e sono contento di farlo, punto. Oh, basta. Veronica, tu hai registrato, noi abbiamo registrato, è tutto... Io... Assolutamente, mi affido. Più chiaro di così. Più chiaro di così. Che devo dire? No, no, più chiaro di così effettivamente niente. Andiamo al traffico, poi c'è la soluzione per il vice sindaco di Roma. Sapete Repubblica chi dice che potrebbe mettere Marino al posto del vice sindaco che si è dimesso? Tu lo sai, Veronica, chi? Chi ruba si impicchi, sì. No, tu lo sai chi? Vendola. No, ma io dico, ma porca miseria, ma Vendola appena perso la poltrona di qua, Vendola track di là, vabbè, vabbè, dai il traffico. Alessandro, mandami il traffico, che c'è più bordello nelle nostre autostrade che in Grecia. 24 mattino. Milan, ma te ne vai in ferie, per oltre un mese, ma sei convinto che quando tornerai troverai il tuo posto di lavoro? L'inglese di Renzi è l'inglese che insegnano alla scuola italiana, che fa pietà. Uè Milan, ma lo sai che se lavoravi in Grecia eri già in pensione? Sì, perché lì il tuo lavoro è considerato un lavoro usurante, ma secondo me però non è usurante per te, ma è usurante per noi che ti ascoltiamo. Il traffico, che vi informerà che ci sono rallentamenti in raccordo anulare e code in tangenziale di Milano, tutto già conosciuto ampiamente. Milan, ho capito che sei un beniamino di Berlusconi, sei figlioccio di Berlusconi, sei ruffiano di Berlusconi. Caro signore Milan, l'ha sentito quello bardaccio di Renzi? Dice che abbiamo salvato la Grecia. Ma che ha salvato? Se quando c'è stata decisione, prima l'hanno messo in castigo dietro la lavagna e poi l'hanno cacciato fuori dalla porta. L'unica cosa che gli hanno fatto decidere, perché gliel'hanno fatto decidere loro, che adesso con quello che dovevamo mutare la Grecia ci dovevamo impegnare anche le mutande, hai capito? Ecco lo bardaccio, te l'avevo detto che era un bardaccio da un tempo fa. Ciao man, ciao Milan, ciao, buone ferie, non ti fai influenzare quelli che ti dicono male, ciao ciao. Eccolo qua, il nostro contadino di Terni. E allora siamo con Paolo Del Debbio, che è a zero possibilità di diventare sindaco di Milano, non lo vuole fare, basta, basta, non chiedeteglielo più anche, posso portare avanti questa. Grazie, per... grazie, oh, basta, grazie, avete grazie. Rotto le palle con questa storia di Paolo Del Debbio. Basta, ecco, basta, basta, questo è Giannino, facciamolo risentire, Oscar. Basta, basta, basta. Oh, basta, va bene Veronica. Niente petizione, tre volte. Sì, niente, esatto. Petizione su Change.org per fare esatto, facciamo la petizione change.org. Perché non si muovono? Paolo Del Debbio, sindaco di Milano, convinci un Paolo Del Debbio. Ma lasciali fermi che fanno le feste. Vabbè, sei contento invece che forse arriverà Vendola a sostenere Marino, caro Paolo? Beh, due concreti insieme, insomma, ecco, molto operativi, molto efficaci, ambedue, insomma. Scusa se rido, ma ho colto un filo di ironia. Due pragmaticoni, parlando in lei. Veronica, effettivamente, diciamo che te lo da vedi? Questo punto di vista faccio fatica a contestare. Che belle riunioni di giunta dove uno discute. Uno fa un ragionamento, quell'altro gli fa tutta un'altra roba. Mentre si rincorrono in bicicletta con lui che gli parla di Pasolini e Marino che... Esatto, esatto, esatto. Potrebbe essere una bella riunione di giunta. Però... è la compensazione, dovrebbe essere nella testa di Marino la compensazione di Nieri, in più siccome il PD comunque non gli ha fatto è di Sella sponda, dello stesso partito, ha per questa ragione, quindi sì, compensa sì. E poi no, appunto, non avendo avuto un PD forte che l'ha sostenuto davvero in questa faccenda ed essendo stata la parte più a sinistra, se vuoi, che è stata quella più consistente, la nomina di Vendola sarebbe simbolica in questo senso. Intanto noi stiamo provando a chiamare Buonanno, ma suona l'onorevole Buonanno? Sta suonando, ma vediamo se risponde. Mamma questa. Mia, no, dai, Veronica, non fare dai. Così. E vediamo. Buonanno, sono Alessandro Milan di Radio 24. Siamo in diretta, c'è Paolo Del Debbio che ti ascolta. E Veronica, buongiorno, Buonanno. E Veronica, ciao. Gentili del Fatto Quotidiano. Sì. Buongiorno. Abbiamo pensato a lei, caro Buonanno, perché ci è venuto in mente della vongola, che l'Europa boccia le vongole. Allora, prima che venisse l'idea a lei, gliela diamo noi, perché non va con un bel coso di vongole in Europarlamento e glielo spiattella lì? Settimana prossima mi presento con le vongole. Del debito, del debito. Visto? Te l'avevo detto. Vedi? L'avete svegliato di soprassalto, che volevo dire? Dico, ma ci ha pensato già. Buon anno, ringrazio. Ma come collaboratori? Ma come fa? È illegale. È illegale, buon anno, però, perché raccogliere le vongole sotto i 25 mm è illegale. Quindi come farà? Come farò? Cercherò le vongole che riesco a trovare in giro e poi andrò spiegando che magari se le trovo più grosse, dico queste sono ok, però quelle più piccole no, ma alla fine chi ci rimette sono solo i pescatori italiani e italiani. Dopodiché se le trovo più piccole, dico secondo voi queste perché non si possono mangiare? Le mangi proprio, le apra così con una mossa da uomo, proprio track, e si mangi una vongola cruda lì in Europarlamento. Non c'è problema, mangio c'è. Anche il guscio se serve. Grande, buon anno. Capito Veronica Gentili, che uomo. Sì, Veronica Gentili del Fatto molto. Quotidiano la stima molto politicamente. Veronica, siamo sulla stessa linea. Sì, va bene, mi fa piacere. Non so se devo spaventarmi io o lei, comunque va bene lo stesso. Va bene. Certo, io ormai lotto col terrore quotidianamente. Va bene, buon anno, la lasciamo dormire. No, ma la sentiamo già bella sveglia. Quindi... No, ci mancherebbe. 6:53, uomo padano. Già. Ieri abbiamo avuto. Abbiamo una manifestazione qui sul nostro territorio dove ci sono concerti tutte le sere importanti. Quindi... Cosa c'entra questo? No, c'entra perché alla fine uno non è che come va, letto caso, fa solo, va letto tardi, fa solo Strasburgo, Bruxelles o il sindaco. Ci sono tante altre situazioni per cui uno fa H24. Però mi raccomando, le vongole, noi ci teniamo, vogliamo proprio questa protesta che manderemo in onda e poi noi diremo gli abbiamo dato noi l'idea. Devo trovare però il momento giusto per cui la prossima vado con le vongole, ma se non è l'atmosfera giusta dovete aspettare settembre e allora lì faccio il cinema perché lo devo fare quando c'è Juncker, quando c'è qualcuno di il cinema. Sì, esatto, capito, fa il cinema, fa il cinema. No, non vorrei che in questi giorni con la Grecia passasse un po' in sordina la faccenda delle vongole, magari corriamo questo rischio se le mangiamo con guscio. Lanciare le vongole in testa a Juncker non sarebbe male. Lanciare le vongole in testa a Juncker col guscio, ma col guscio no. Le porteremo, promesso. E comunque è un problema serio perché questo problema l'ho sentito già parecchie volte, me l'hanno sottolineato andando in giro per l'Italia e quindi no ma è vero, adesso proprio pare che il settore sia il settore italiano è una questione molto seria. Vi devo salutare, ringraziamo anche buon anno che abbiamo preso così e vongole permettendo al volo. Ringrazio Paolo Del Debbio che non farà il sindaco di Milano, smettetele di chiederglielo, e ringrazio Veronica Gentili con me ovviamente a Stroghilo per la modica di 4,5 milioni che adesso cercherò di raccogliere. Grazie. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17, cari ascoltatori, dopo il Parlamento siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo anche che oggi parleremo di un tema che sui giornali è molto sviluppato e cioè, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, i 218 parlamentari che fanno una proposta di legge per legalizzare la cannabis. Eccoci qui. E allora ne parleremo con Benedetto Della Vedova, che è vice ministro degli esteri, ma in questo caso è il primo firmatario di questo gruppo di parlamentari. Sarà con noi anche il magistrato Nicola Gratteri, che invece è contrario. Cercheremo di avere un approccio, per carità, non morale o moralistico. Sappiamo tutti che la droga fa male, questo non c'è bisogno di dirlo, ma se volete lo ridiremo per 500 volte di seguito. Cercheremo di capire se un approccio pragmatico può portare a, con dei coloro che sostengono di sì, altri che sostengono di no, a dei benefici anche economici, di lotta al crimine. Ne parleremo con Benedetto Della Vedova e Nicola Gratteri. Ora andiamo a leggere i giornali.

a 4 anni di carcere. Ovviamente lo so che è brutto, ma i titoli, visto che lui faceva il contabile, anche oggi Libero titola così: la vita di un ebreo in Germania vale 7 minuti di carcere. Questo è un calcolo brutale di quanti sono i 300.000 internati e gli anni di carcere, che ovviamente a 94 anni immagino non sconterà. Il contabile di Auschwitz, lo trovate su Libero, trovate tante notizie ancora, trovate anche l'intervista, c'è solo il tempo di citarla, a Barack Obama, fatta al New York Times e riproposta da Repubblica, pagina 12 e 13, Barack Obama che difende il suo accordo, l'accordo degli Stati Uniti del 5+1 con l'Iran. Va bene, va bene, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, indovinate un po'. Indovinate un po' che succede il 16 luglio. La Stampa ci dedica una pagina. Indovinate un po', secondo voi, che succede il 16 luglio. Oh, fa caldo. Ah, fa caldo. Luca Mercalli, luglio 2015, mai così caldo da oltre un secolo e mezzo. Ogni anno lo scrivono. Ogni anno poi incredibilmente a luglio è incredibile questa cosa. È incredibile. Fa caldo. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Eccoci qui, sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, ci sono 218, o non ho capito se 218 o 220 parlamentari che hanno firmato la proposta di legge bipartisan, come si dice in questo caso, per legalizzare la cannabis. Hanno sottoscritto tutti insieme questa proposta. Ne discutiamo con colui che è il maggiore proponente. Vorrei magari anche con gli ascoltatori, ovviamente, che si avesse un approccio per una volta non moralistico, se volete, nel senso che non dobbiamo discutere se la droga faccia bene o faccia male. La droga fa male e questo lo sappiamo, ma con questo principio, se la mettiamo su questo piano, ci sono tante cose che fanno male. Il tabacco e l'alcol mi vengono in mente subito, eppure sono legali, sono tollerati. Bisognerebbe capire un approccio pragmatico e vorrei cercare di capire che senso ha legalizzare la cannabis. Una proposta di legge che in estrema sintesi, se approvata, prevede questo: si stabilisce un principio di detenzione lecita di una certa quantità di cannabis per uso ricreativo, sono 15 grammi in casa e 5 se si sta fuori casa. Questo vale solo per i maggiorenni, i minorenni assolutamente no. Sarà possibile anche coltivare fino a 5 piante di marijuana in casa e detenere così il raccolto prodotto. Lo spaccio invece non sarà mai in alcun modo tollerato e mai si potrà consumare nei luoghi pubblici. Si potrà coltivare anche non singolarmente, ma formando un'associazione di persone che coltivano 5 piante per ogni associato. Allora, Benedetto Della Vedova è il senatore che da subito si è mosso per raccogliere le firme. Buongiorno Della Vedova, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, tanto quanti sono? Perché ho letto 218, 220, il numero preciso. Diciamo, abbiamo piccola anteprima. No, abbiamo superato i 250, perché 218 era al momento della conferenza stampa. Nel frattempo si sono uniti. Nel pomeriggio ci sono stati un sacco di colleghi che hanno chiesto di poter aggiungere la propria firma. Solo alla Camera credo che siamo 209, siamo arrivati a 209-210 firme. Obiettivamente, posto che poi per votare una legge ce ne vogliono 316 di deputati. Ma obiettivamente è un buon punto di partenza. Allora le faccio subito sentire Lupi del Nuovo Centrodestra. Mi pare che nel Nuovo Centrodestra nessuno abbia firmato, a meno questo a ieri. Lupi, da un giornalista che gli chiedeva questo, risponde con uno dei grandi classici. Senta qua. Nessuno di NCD ha firmato questa proposta. Beh, meno male. Se c'è una priorità, forse la dovremmo dare alle vere liberalizzazioni, non alle liberalizzazioni delle droghe, anche se leggere. Come è dimostrato in tutto il mondo, le droghe leggere poi sono uno dei primi passi verso la dipendenza. Allora, questo è un gran classico. Le droghe leggere portano alla dipendenza. Per fortuna la statistica che parla di milioni di consumatori più o meno abituali di hashish in Italia dimostra che questo non è vero, perché altrimenti avremmo, e sarebbe un dramma assoluto, avremmo milioni di tossicodipendenti da sostanze come l'eroina, e questo non succede, credo che sia sotto gli occhi di tutti, che è un bene ovviamente. Però la questione mi faccia capire come mai questa proposta di legge, cioè c'è il proibizionismo che non ha sortito effetti, è questo che vi ha spinto a dire la cultura proibizionista è una cultura che non ha portato a risultati? Sì, ma su un piano pragmatico, innanzitutto noi non parliamo di liberalizzazione ma di legalizzazione, la differenza non è solo semantica, le liberalizzazioni sono quelle che speriamo che l'UPI e l'NCD spingano in questo governo, farmacie, taxi, tutte le cose su cui spesso loro in termini di liberalizzazioni non hanno dato il massimo. Noi parliamo di legalizzazione, cioè di un quadro legale, che significa ci sono alcune cose che tu puoi fare o comunicandole o ricevendo un'autorizzazione, una licenza, e le altre cose no. Ad esempio, noi prevediamo, l'ha detto lei inizialmente, che tu possa coltivare fino a 5 piante. Se coltivi la sesta prendi la multa, non puoi. Se ne coltivi 600 cadi nella verrai presumibilmente incriminato per spaccio. Puoi vendere, come lei ha detto, in negozi dedicati. Perché abbiamo scelto la via del negozio dedicato? Perché uno dice le farmacie, le tabaccherie. No, perché siccome noi vogliamo che il divieto ai minori sia fatto rispettare, ci siano gli strumenti per farlo rispettare, è chiaro che devi mettere un negozio dove possono entrare solo maggiorenni e quindi si vende solo quella roba lì. Se tu vendessi anche gli ovetti Kinder, è chiaro che, come succede in tabaccheria, sì, è chiaro che non potresti proibire l'accesso. Ma secondo lei qual è, senatore Della Vedova, la resistenza più grande? La resistenza culturale, oppure anche, io ho voluto escludere l'approccio moralistico, però c'è, voglio dire, il fatto che la droga faccia male, lei mi può dire anche l'alcol in abuso fa male. Secondo me è un tabù che però ormai, guardi, noi abbiamo commissionato, ho presentato io un sondaggio all'Ipsos di Pagnoncelli, quindi non a un istituto qualsiasi. Da questo sondaggio emerge che c'è una forte maggioranza, 65-70% di italiani, che dicono che bisogna cambiare verso e che dicono che sono pronti a sostenere una svolta di tipo americano. Dico, tipo americano, cioè, di alcuni stati, alcuni stati. Di alcuni stati americani, però lo dico agli ascoltatori attenti di Radio 24, segnatevi la data del Big Tuesday del 2016, il martedì di novembre, dove si voterà per le presidenziali, se siete interessati all'argomento legalizzazione della cannabis, perché quasi di sicuro ci sarà il referendum in California. California, diciamo, è lo stato guida per tantissime cose, in particolare per l'economia, ma non solo, negli Stati Uniti. Uno dei primi stati a introdurre la marijuana terapeutica, ma non ha ancora legalizzato, almeno da un punto di vista formale, la marijuana cosiddetta ricreativa, e ci sarà il referendum per la California, quasi di sicuro. Tutti i sondaggi dicono che se vi fosse il referendum vincerebbe nettamente sì. A quel punto si aggiungono, credo siano, sì, 35-37 milioni di americani, e quello sarà secondo me il cambio, il game changer, il cambio di gioco negli Stati Uniti. E lei dice questo potrebbe dare una spinta in qualche modo. Sì, perché oggi negli Stati Uniti, dove le scelte che sono state fatte su base pragmatica, gli Stati Uniti erano i più cattivi contro la droga, senza se, senza ma, senza distinzione di sostanze. A un certo punto si sono accorti che sulla marijuana buttavano soldi, come ci ha spiegato la Direzione Nazionale Antimafia in Italia, buttavano soldi, impegnavano uomini senza cavare un ragno dal buco. Sì. Il consumo aumentava, i danni di questo consumo erano contenuti assolutamente paragonabili alcol e tabacco. Molti studi sostengono che i danni complessivamente alla salute, alla società, eccetera, sono molto minori che non quelli dell'alcol. Difficilmente uno fa violenza in casa come succede con l'alcol. Ma insomma, hanno capito che la cosa non funzionava. Siccome gli americani sono pragmatici, hanno detto: beh, e se provassimo la via opposta? Ma infatti alcuni stati americani lo hanno fatto. Però mi faccia capire, lei fa parte tra l'altro del governo, ricordiamo, Benedetto Della Vedova è anche sottosegretario agli esteri. Ci sarà un appoggio del governo? Perché se andate avanti con i numeri non è facile, ci ha detto lei che servono 316 sì alla Camera. E se, per carità, se da 250, chissà, uno può cammin facendo raccogliere altre adesioni. Forse un appoggio del governo risolverebbe l'impasse, ma ci sarà... Io non l'ho chiesto, noi non l'abbiamo chiesto, non lo cerchiamo. Intendiamoci, a trovare una legge che abbia arrivi a discussione alla Camera con 210 firme, credo che, non so se ce n'è mai stata un'altra, forse una o due sì, nella storia della Repubblica. È chiaro che abitualmente uno vota a favore di una legge anche se non è firmata, sì. Quindi è già un numero molto consistente, bisogna vedere il voto. Ma il governo è inutile tirarlo in ballo, l'articolo 71 della Costituzione dice che l'iniziativa legislativa appartiene al governo e al Parlamento, ai parlamentari. In questo caso è un'iniziativa parlamentare. Ricordo che se noi avessimo aspettato che a votare la legge sul divorzio fosse una maggioranza di governo, sicuramente non ce l'avremmo avuto fino al 94. Tutti i governi della storia repubblicana fino al 1994 avevano dentro la DC come partito principale. La DC notoriamente contraria, non avremmo avuto la legge sul divorzio. La legge sul divorzio, come quella sulla posta, si è avuta perché una maggioranza parlamentare distinta da quella del governo ha votato a favore, quindi non sarebbe manco un inedito. Sì, no, ma è chiaro, i parlamentari possono legittimamente proporre delle leggi. Però le posso chiedere qual è la ratio vera della legge, cioè perché viene fatta? Banalmente non posso credere, perché uno possa essere libero di farsi una canna, ecco, questo sarà anche uno dei motivi, insomma, per l'uso ricreativo e la libertà di potersi fare una canna. Ma allora, questo non è nel mio punto d'arrivo, nel mio punto di partenza politico. Qual è allora il motivo vero per cui si vuole fare questa legge? Allora, preso atto che c'è un consumo di massa, di questo parliamo, milioni di italiani che fumano o consumano cannabis saltuariamente o quotidianamente, questo mercato c'è. Tutti gli sforzi di cancellarlo sono falliti. Chi era titolato a combattere il traffico di marijuana, Direzione Nazionale Antimafia, ci ha detto, rivolgendosi ai legislatori, depenalizzate perché non caviamo un ragno dal buco, ed è un fallimento la repressione. I danni che questo consumo, ripeto, comporta sono, l'ha detto anche Veronesi ieri, poi ci saranno anche medici che dicono una cosa contraria, ma sicuramente Veronesi ha una sua autorevolezza, come mi dice. I danni complessivi di questa roba qui non sono peggiori di quelli che fanno l'alcol e il tabacco, che sono legali. Questo mercato, così com'è, così grande, significa prendere dei soldi mediamente legali, cioè gente che ha lo stipendio, paga le tasse, e trasferirli quotidianamente alle mafie. Invece, quindi stroncare il crimine è una delle ipotesi, e anche fare soldi dal punto di vista dell'economia. Il caso del Colorado è fantastico, perché devo dire che gli introiti fiscali sono stati un po' al di sotto della previsione nei primi due anni, adesso stanno crescendo, gli introiti fiscali stanno crescendo molto significativamente. Parleremmo nel caso italiano di miliardi di euro anche per l'economia, questo è l'approccio pragmatico, pragmatico, non tiene assolutamente conto dell'aspetto moralistico, ma insomma lei da vecchio radicale non quell'aspetto adesso non voglio fare la solita litania, però E negli Stati Uniti a un certo punto hanno provato a proibire l'alcol. E non ha funzionato. Che cosa è successo? Che la gente non beveva più? No, mafia, questo è chiaro. Produceva l'alcol illegalmente, nessuno sapeva cosa ci metteva dentro al capone nell'alcol, mentre che è quello che succede nella canna di oggi. Se ci mettono sostanze per farla pesare di più, la tagliano, devi fidarti del pusher della mafia. E invece così sarebbe controllata. Della vedova, mi faccio sentire un paio di ascoltatori su questo tema, ovviamente molto molto sentito. Andrea da Pesaro ci chiama, buongiorno Andrea. Buongiorno Milan, buongiorno Della Vedova. Sì. Facciamo un approccio pragmatico, perché a me questa cosa della legalizzazione non mi piace. Allora, nel progetto di legge io mi domando, è previsto tutta una serie di norme o qualcosa che stabilisca che la scuola faccia prevenzione contro l'uso della cannabis? Primo punto di domanda. Secondo punto di domanda della vedova. Io mi domando, visto che si fa tanta fatica ad approvare un provvedimento legislativo per l'omicidio stradale, io dico, ma la combinazione alcol e cannabis per uso, come dice lui, ricreativo, qualora facesse danni, morte o qualcosa contro gli altri, come vengono tutelati gli altri che vogliono stare normali? Sarebbe vietato fumare e guidare, ovviamente. No, però se uno fuma... Cioè lei dice ci vorrebbe un inasprimento delle pene per chi sotto effetto eventualmente di marijuana dovesse fare un omicidio stradale? Nel progetto di legge, se uno ricreativamente in casa beve alcol e fuma cannabis, poi esce e prende maledettamente la macchina, cosa succede quel sabato sera? Commette un reato. Allora, siccome sto reato ancora non è stato neanche provato, quell'omicidio. Cioè, lei vorrebbe, se c'è questa legge, però mettete un inasprimento delle pene o mettete questo omicidio stradale. Chiediamo al pragmatico della vedova se hanno va bene, della vedova, risponda anche sulla questione della prevenzione. Sul primo punto. Noi prevediamo che una quota degli introiti fiscali derivanti dalla legalizzazione della marijuana vadano proprio a rimpolpare il fondo fondo che viene gestito dal governo per le campagne di lotta a tutte le droghe e di dissuasione dall'uso e dall'abuso di sostanze, quindi anche per la dissuasione dell'uso della cannabis, questo c'è chiarissimo. Le campagne di prevenzione sono essenziali e se hai una sostanza legale è più facile fare campagne di prevenzione. Sul secondo punto, è chiaro che noi abbiamo previsto in modo tassativo che sia vietato. Però l'ascoltatore chiedeva di più, cioè nel senso chiedeva mi piacerebbe che parallelamente si introducesse l'omicidio stradale, per cui io legalizzo la cannabis, ma poi se ti becco a fumare e a compiere qualcosa. Qui c'è un punto di partenza. Questo è un aggravante. Ci sarà verrà concluso l'iter parlamentare, o comunque posto il reato di omicidio stradale, è chiaro che l'aggravante di stato di ubriachezza o l'aggravante, ma quella c'è già, quella c'è di già. Alterazione, quella funziona da sé. Io registro che oggi drammaticamente sabato sera, e non solo noi, in alcune stagioni fortunatamente meno, questo dramma ce l'abbiamo credo al 90%, forse anche di più, dovuto all'alcol. Quindi anche qui prevenzione, controlli, ovviamente anche per la cannabis come tutte le sostanze. Sì, questo ci saranno. Sentiamo. Poi devo dire la verità che gli studi che sono stati fatti in America, anche specificatamente sugli incidenti stradali, non hanno rilevato alcun aumento. Sentiamo Simone dalla provincia di Frosinone per concludere questo argomento. Simone, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Milan, e un saluto anche all'onorevole Della Vedova. Senta, io volevo solo mettere l'accento sulla incapacità della politica di prendere delle decisioni chiare. Cioè, o si liberalizza la droga leggera o non si liberalizza. Si legalizza. Si legalizza, scusa. Perché 5 piante sì e 50 no? Cioè, mi sembra perché lì si configura come spaccio, insomma. Ho capito, però mi sembra un ho capito, Simone, che dobbiamo fare? Cioè, lei vuole fare una piantagione di marijuana? Non dico lei, per dire, cioè un cittadino vuole fare, se vuol fare lo spaccio tu. Premetto che sono contrario a questa proposta di legge. Però non mi sembra, diciamo, coerente con la volontà di cambiare le cose, un discorso del tipo sì, la potete consumare ma non si può spacciare. È come la prostituzione, ci si può prostituire ma lo sfruttamento. Quindi lei dice se proprio la volete fare legalizzatela in maniera totale. Liberalizzato l'alcol, è chiaro che io non posso produrre alcol, per carità, però lo trovo, ne posso comprare quanto ne voglio se sono maggiorenne, giusto, no? Quindi, sì. Se si va in quella direzione, si vada in quella direzione per un motivo molto chiaro, quantomeno tra qualche anno ci accorgeremo se la decisione politica è stata giusta o sbagliata. Va bene, questa è chiaro, è la considerazione di Simone. Io devo andare in pubblicità, altrimenti tanto, senatore della Vedova, sa che torneremo su questo tema perché vorremmo capire l'iter. A questo punto ci sono 250, ci ha detto già, parlamentari tra Camera e Senato, alla Camera ci ha detto 210 e vedremo, insomma, con sempre il pragmatismo che ci contraddistingue, senza moralismi, cercheremo di capire. Intanto la ringrazio, Benedetto della Vedova, per essere stato con noi. Devo andare dalla pubblicità, poi avremo Vittorio D'Arold con noi, inviato del Sole 24 Ore da Atene, perché nella notte Atene ha votato al Parlamento il piano per ottenere 86 miliardi. Che succede lì? Sono le 8:42 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan in Parlamento nella notte. Il Parlamento greco, stiamo parlando di Grecia. Il Parlamento greco nella notte, o dopo mezzanotte, comunque ha votato e ha votato sì al piano concordato da Tsipras con i leader dell'Unione Europea. 229 sì, 64 no, 6 astenuti. Ναι. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Ναι. Β' Αθηνών. Βαρουφάκης Ιωάννης. Όχι. Βότα νο Βαρουφάκης Ιωάννης. Avete presente, no? Βαρουφάκης, ex ministro delle finanze, vota no. E subito dopo, o mentre si discuteva di questo piano, qualche facinoroso, insomma qualche contestatore ad Atene si è visto. Anche bombe Molotov, la polizia, gli scontri. Speriamo davvero che sia, come dire, non la premessa di una situazione sociale che ha una tenuta certamente a rischio, come ci conferma e come racconta tutti i giorni sul Sole 24 Ore Vittorio D'Arold, inviato ad Atene, che saluto. Vittorio, buongiorno, ben ritrovato e ciao. Eccoci. Buongiorno a voi. Allora, il voto è arrivato, si attendeva questo, cioè il sì era previsto, ma c'è un partito di Tsipras che mi pare è spaccato, non so se a metà, ma quasi. Sì, esattamente, c'è stata proprio una divisione all'interno del partito. Il Premier nel pomeriggio ha cercato, dopo un comitato centrale che aveva già segnalato che la maggioranza del partito non voleva votare, con una strana contraddizione, non volevano votare il piano ma volevano stare al governo, quindi sostenere il governo, un paradosso tutto greco che sta a segnalare come il partito non era pronto a fare questo bagno di realismo che invece Tsipras, che è andato a Bruxelles, ha fatto nel vertice, è entrato come radicale, è tornato come realista pragmatico e ha accettato appunto di bere ancora una volta queste misure di austerità, mentre il partito era ancora sottoposto a diverse critiche, a tormenti. Sì. Lui ha fatto una lunga, appassionata dialettica per cercare di convincerli che non c'era altra posizione, non c'era altra soluzione, e l'unità era salva. Poi alla fine effettivamente 40 non l'hanno seguito. Questo bisogna capire dal punto di vista di politica interna. Ma intanto Varoufakis che vota no, beh, anche questo era abbastanza chiaro, ma sarà lui, cioè che succede, farà l'oppositore di Tsipras all'interno di Syriza? Sì, esattamente, si è creato un altro partito più radicale che sta cercando naturalmente di entrare e a far diventare un nuovo punto di riferimento politico. C'è Varoufakis che non solo ha rotto con il primo ministro, quindi si è proprio rotto un rapporto di amicizia e di stima reciproca che per sei mesi ha tenuto col fiato sospeso l'Europa, però Tsipras durante questo colloquio ha detto è stato un buon è un buon economista ma un pessimo politico, quindi c'è stata la frattura. Ora bisogna capire che succede, perché Vittorio tu sei sempre abituato a giostrarti tra i numeri, sappiamo che 82-86 miliardi nei prossimi tre anni sarà il fabbisogno che andrà alla Grecia, ma c'è anche questo prestito ponte. Ora, questo sì cosa vuol dire? Che arriveranno i primi soldi subito, quanti, ad Atene? Sì, esattamente, bisogna che arrivino innanzitutto almeno 7 miliardi di questo prestito ponte, perché ancora una volta l'Europa si trova impreparata, perché il fondo che abbiamo, il fondo salva stati, diciamo lo ISM, che è quello che si attiva normalmente in questi casi, ha bisogno del memorandum, cioè ha bisogno che tutti i parlamenti europei, perché sono più di sei, lo approvino, e così pure quello greco che l'ho appena fatto. Però se non ci c'è questa approvazione non possono arrivare. Allora hanno pensato di usare il vecchio fondo salva stati, lo IFSS, però era stato fatto con i 28 parlamenti, con i 28 non solo quelli dell'Eurozona, e quindi gli inglesi hanno detto no, noi i nostri soldi non li vogliamo usare. C'è l'altra strada dei piani bilaterali, cioè dei prestiti bilaterali, ma l'Italia ha detto no, ci devono usare i fondi europei. Insomma, siccome al solito quando arriva il momento l'Europa non ha mai ancora gli strumenti, perché non è ancora una costruzione compiuta, quindi c'è la moneta ma manca il resto. È tutto sempre un tentare di trovare soluzioni di fronte ai problemi. Intanto l'ultima questione è proprio della tenuta sociale. Le banche rimangono sempre chiuse, cioè l'ultimo era giovedì, dovevano aprire giovedì, ma ormai di rinvio in rinvio non si capisce veramente al momento quando riapriranno o no. E poi la tenuta sociale, ieri sono visti degli scontri, forse era prevedibile, c'è qualcuno facinoroso che è sempre pronto a sfruttare il momento, il rischio è che possa in qualche modo anche aumentare, no, questa tensione. Sì, esattamente, era prevedibile che ci fosse questa diciamo manifestazione di piazza, perché Syriza, spostandosi nei confronti delle misure di cui aveva fatto poi il baluardo, aveva fatto tutta una campagna per dire che avrebbe modificato le misure di austerity, nel momento in cui invece si è proposto come partito appunto che continua con questa linea politica, ha subito naturalmente le ire della piazza, però non penso sia un problema molto rilevante, perché erano veramente i soliti facinorosi, non era una, no, ma è chiaro, bisogna capire proprio cosa succederà e se arriveranno i primi soldi. Io intanto ti ringrazio, Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore da Atene, grazie davvero di essere stato con noi per gli ultimi aggiornamenti, che davvero sono piombati nella notte, ma ogni giorno la Grecia regala novità davvero di ora in ora. È il momento del traffico. Eccoci qui alle 8:49 minuti, Fabrizio da Roma ci chiama, immagino per il tema cannabis trattato prima. Buongiorno Milan. Buongiorno Fabrizio. Esatto. Buongiorno. Guardi, allora intanto volevo stabilire che chi afferma che la cannabis è la porta per il consumo di droghe è totalmente sbagliato. In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Ma non è dovuto dall'assunzione di cannabis, è dovuto esclusivamente dalla persona, è una cosa soggettiva. Certo. Io non ho nessuna malattia, non ho diabete, non soffro di pressione, ho 45 anni, sì. Premesso che non bevo alcol, io fumo marijuana dal 1986, conduco una vita normalissima, lavoro, non soffro di schizofrenia, sì. Faccio nuoto, ho il certificato di sana e robusta costituzione. Sì, però Fabrizio sa. No, ma certo, però Fabrizio, io le potrei presentare invece persone che ho iniziato dallo spinello e poi per curiosità sono finito nella droga più devastante. Sa, ogni storia, come dice lei, è soggettiva, però lei dica, quindi sarà favorevole, immagino, a questa legge. Ho anche persone che hanno iniziato direttamente con l'eroina. Ah sì, ma infatti c'è di tutto. Quindi, ecco, quindi non si può affermare assolutamente che il consumo di cannabis è la porta per no. In assoluto no, ha ragione. Io sarei morto da secoli. Io ho premesso che fumo e vado a lavorare. Pensi, io faccio un lavoro dietro un banco di gastronomia, sì. Quindi maneggio coltelli, pulisco il prosciutto, non mi sono mai tagliato. Anzi, le dirò, siccome ci sono due tipi di cannabis, sì, una che diciamo dà come uno sprint in più e l'altra invece che è più rilassante. Mm. Io quando fumo per lavorare, quando devo lavorare, sì, si rilassa prima, così. Adesso me lo dica, no, mi rilasso no, con una quella, bella canna. No, uso quella, mi rilasso quando ho finito di lavorare e tocca a casa con il mio gatto e guardo un film. Ma se fumo l'altro tipo di marijuana, lavoro tranquillamente. Vabbè, a parte la sua esperienza, Fabrizio, sì, a parte la sua esperienza, mi dica solo sì o no. Sarebbe favorevole alla legge? Immagino di sì. Perché sono favorevole, però con alcune restrizioni. Laddove non ci siano precedenti penali, laddove non ci sia un incidente, sì, sono favorevole. Soprattutto in campo medico. No, vabbè, allora in campo medico devo dire, c'è chi mi ha scritto, un'ascoltatrice, dice. Un'ascoltatrice mi ha scritto: mio padre, per esempio, usa marijuana terapeutica. Bisognerebbe informarsi. Simonetta, guardi che lo so bene, ma il campo terapeutico, dove l'uso della cannabis è già consentito secondo alcuni principi, è tutta un'altra questione. Qui stiamo parlando di marijuana d'uso ricreativo, farsi le canne. Capito, Simonetta? Farsi le canne, no, l'uso terapeutico per i malati, che è una cosa molto seria e diversa. Oh, come voi sapete, seguiamo le imprese di Samuel Marchese e i suoi amici che, portatori di disabilità, da Siracusa sono partiti ieri, vogliono arrivare fino all'Expo e arriveranno sicuramente fino all'Expo. Ieri la prima tappa, Samuel da Siracusa Priolo, allora com'è andata? Ciao! Ciao Alessandro, la prima tappa è andata tutto bene, siamo arrivati a Priolo come previsto dopo un'ora e un quarto circa. Ovviamente è stato un bel tragitto, una bella esperienza che oggi rifaremo per Catania. C'era anche un gran caldo, un gran sotto il sole cocente. Immagino. Ovviamente per questo motivo è stata una grande faticaccia, una grande sudata. Quindi nelle salite avevamo un po' di difficoltà, ma niente di impossibile. Sì. Cioè, la volontà fa superare tutti gli ostacoli, e questo era uno di questi. Mi sembra giusto, la volontà su tutto, visto che è una forza che avete dentro. Ricordiamo, tu vai in end bike e oggi che farete? La tappa, ci hai detto, a Catania? Sì, allora noi partiremo per andare a Catania, faremo 30 km fino a Catania e lì verremo accolti dal sindaco e dall'amministrazione comunale e ci saranno anche dei giornalisti. Siamo sempre emozionati perché verremo accolti da altre persone, da un altro comune, da un'altra amministrazione comunale, quindi l'emozione c'è anche oggi. È ovvio. Allora, come sempre, in bocca al lupo, Samuel, a tutti i tuoi amici che stanno facendo questa risalita dall'Italia, da Siracusa fino all'Expo di Milano. Arriverete, mi è arrivato tutto il percorso, inizio agosto più o meno, inizio agosto. Ogni giorno c'è bisogno di sostenere Samuel. Mi raccomando, scrivete una mail a noi 24mattino e radio24.it, vi diremo come fare. Intanto la nostra segreteria telefonica. Sì, Milan, ma te ne vai in ferie per oltre un mese, ma sei convinto che quando tornerai troverai il tuo posto di lavoro? L'inglese di Renzi è l'inglese che insegnano alla scuola italiana, che fa pietà. Uè Milan, ma lo sai che se lavoravi in Grecia eri già in pensione? Sì, perché lì il tuo lavoro è considerato un lavoro usurante, ma secondo me però non è usurante per te, ma è usurante per noi che ti ascoltiamo. Il traffico, che vi informerà che ci sono rallentamenti in raccordo anulare e code in tangenziale di Milano, tutto già conosciuto ampiamente. Milan, ho capito che sei un beniamino di Berlusconi, sei figlioccio di Berlusconi, sei ruffiano di Berlusconi. Caro signore Milan, l'ha sentito quello bardaccio di Renzi? Dice: abbiamo salvato la Grecia. Ma che ha salvato? Se quando c'era da decidere, prima l'hanno messo in castigo dietro la lavagna e poi l'hanno cacciato fuori dalla porta. L'unica cosa che gli hanno fatto decidere, perché gliel'hanno fatto decidere loro, che adesso con quello che dovevamo dare alla Grecia ci dovevamo impegnare anche le mutande, hai capito? Ecco un bardaccio, te l'avevo detto che era un bardaccio da un tempo fa. Ciao men, ciao Milano, ciao, buone ferie, non ti fai influenzare quelli che ti dicono male, ciao ciao. Comunque tutti a dire delle ferie, ma io domani sarò qua e settimana prossima siamo qua, le ferie sono tra sei giorni, per cui c'è tempo, c'è tempo, poi starò cinque settimane in ferie. Beh, allora che devo fare? È una colpa? O l'odio sociale, gente che scrive beato tu che fai le ferie perché vuol dire che hai un lavoro. Sì, ho un lavoro, finora ce l'ho, domani non lo so, potrei perderlo, ma scopriremo. Grazie a tutti, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Domani per l'appunto alle 6.30 noi siamo qui. E voi, debosciati? 24 mattino.